moglie per la vicinanza, non c'entra niente. Però come cosa sto uscendo bene come trasmissione? E lo so già che è così, non è che... Anton, mettiti a posto la cosa, non mi sei che mente la legge. No, ovviamente lo smontiamo tutto, quello che fa. C'è nulla, lascia lì. Perché ho questo documentario qua. Buonasera, San Popole. San Popole? Allora. Alla cosa? Io con questa piccola antenna ascolto a tutti, eh. Ce n'è uno basso basso, non riesco a tirarlo fuori. Dove? Questo canile. Natuio, e no? Deve essere, perché l'altro a coso lo sento. A me ascolta a me. Io ti ascolto a te. A me mi ascolti. Cava. Ma sei chiaro qua? Già va bene, già va bene. C'è già un grido che andava. Ai, riprendi Luca, da. Oh, non sto uscendo. Sì, stai uscendo bene. Oh, non è chiaro, poco. Però vai a casa. No. Sassari, dai, dopo un metro saremo verso Sassari. Ma si arriva da Roma qua. Cava, cava. Bombone, guarda se va meglio adesso. Venga, io ti ascolto, Pierpaolo, sì. Cava. Venga, ti ascolto, ti ascolto. Girando intorno, cercando di chiudere questo quadro. Stavo in una mosca. Ehi, sempre in quella posizione. Salendo e scendendo. Come? Salendo e scendendo. Gaffa, salendo e scendendo proprio. Se Dio vuole domani a mezzogiorno finisco. Oh, se no continuo tutta la notte, alle 5 del mattino finisco, Serpa, guarda, SAP 2000, ce la facciamo vedere i serpenti velenosi. SAP 2000? Sì. Documentario, certo. E poi visto lui. Ciao, negativo. Non si sa che cosa fa domani. No. Sto guardando Luca. Ieri, che male del programma, trova dove mi serve. Nel girone dei dannati, con tutti questi passeggi che stai facendo, Sì, però stai scontando il purgatorio in terra. Ah, eh sì. Buonasera a tutti, avanti la faccia. Ma questo, riprendi il cuore. C'è Luca e Pierpaolo. Ah, Luca, sei avanti Pierpaolo. Prendilo, Luca, riprendi. Sì, da ciao, già. Però mi sto guardando una cosa qua, sto guardando una cosetta, tutto telecomando, ma non è che problema, no, senti qua, ti è collocato il problema. Falla qui, ciao, lo aggiustare. Lo sono messo a posto lì, questo. Questo è stato a posto. Poco! Eia! Sì, hai ragione, già. Ma fanno fare, ma grazie a Dio, ancora la platina che si crea. A me per una volta, mi fa tanto fastidio in conca, la platina scavola, camione, di cui sarà a mancare Dio per conca, asta di violi, mi fa fastidio da dura, mi fa la gatta. Ehi, ma non stavo dicendo in quel senso, non capire male, Giovanni. Stavo parlando sempre di baracchini. Ah, lo so, io non ho capito, ma io ho fatto la battuta, no? Io ho fatto la battuta volendo la girare volutamente. Ehi, se non si scherza guai, Ma, così fare, come mi ascolti? Io bene. Ok, perfetto, così, nuovo... E quasi 5 moderazioni ultima che sono in quelle sottolistica. Permetti, lo devo mettere sotto la ruota del trattore per toglierlo. Hai una ragione, vai, cattivo di migliaia. Eeeh, questi vedi una massa, capito? Da fare la palla. Riprendi Luca. Tratti io sono questo è il comando. Se lo scopri, no? E ti dica tu vale. No, non c'è a posto, c'era un coso sotto, ma c'è a posto. Cosa c'è, cosa c'è, cosa c'è, cosa c'è, cosa c'è? Un mago del cosa, buono lico. Quella dove la cosa? Questo cuore del contatto, dai, dove c'è il canale. No, c'è ancora, grazie. Il capo per dietro, ma due, mi devo andare su dentro, c'è una macchina, c'è il microfono simile. Allora, prendi il coppone, l'alcol etilico, me lo passi sia sulla cosa di gomma che su tutta la tastiera, che non funziona mai lì. Funziona. Basta, pulisci la tastiera, pulisci la tastiera, che sono gli esili che si creano lì. Ma sì, no, che non è il primo. Qua, stava portando uno. Ho paura, ho paura e mi ricordo Natalino. Daniela, mi prendi Luca, lancia gli altri operatori. Via, vai, Garba, chi sei? Ciao Luca, io rilancio per te Luca, ma vado a cenare. Buon appetito a tutti. solo dici calci, io fa. Appena devo andare. Poi tu sono anche stanco, perché questa mattina ho fatto un po' di quindi un po' pesanti, quindi. Adesso anche un altro po' di influenza, avevo gli cura troppo operose, e quindi correndo sempre la casa. Magari dopo potrei rientrare, se mi trovo se no ci piace la carità. Mi fa sempre piacere parlare con voi per questo. Beh, io penso fino all'11 che mi troverai, Vabbè, amico, ci siamo, ci stancando, ma via. Dipende sia Paolo, ma per la nazionale. Sì, ciao, buona carica. Ciao, soltanto. Ero qua, stavo al televisore. Aspetta che mi metto le cuffie. Sveglia. Pronti? Pronti? Anche io ho le cuffie. Non è ancora, non me le fate vedere anche quelle. Chi ti ha preso? E quando vieni te la faccio vedere. Ma che io sono venuto? E me ne sono dimenticato. Cosa c'è l'equalizzatore? Ehi, già. Già. Ehi. Salvatore, buonasera. Esci meglio senza cuffia che con le cuffie. Davvero? Cappa. Come deve fare le cuffie con l'uscita? E prova a vedere, prova a toglierti le cuffie e parlare. Non c'entra niente, Salvato. Un rientro, ci deve essere un rientro di qualche cosa. Da quell'apparato che ha Gianni ogni tanto lo fa, ma non è niente di particolare, dai. Adesso non lo fa più, non lo fa più. Adesso non lo fa più. Ma cos'è? Praticamente il parascolto, se va più troppo fischia. Deve essere. No, perché basta regolarlo, che non fischia più. Come ascolti Salvatore Santiago Radio? Santiago non è che te ne possa dare perché c'ho lo smitto che me lo mettono bene. Il radio bene. Io sono col gemello del tuo, Come? Che sono col gemello di quello che ho venuto a te. Sono una pigliacca, dai. Eia. Come mai? Perché mi piaceva, solo che in quel momento avevo bisogno di soldi, nel senso che dovevo prendere un altro apparato, e ho voluto quello. Poi ci ho ripensato, e siccome l'apparato che mi piace, me l'ho ripreso. Ah, capo, ascolta, dove l'hai preso? Sempre su internet. Quanto? Quanto veniva, te lo ricordi, il numero 370 e tanto. L'hai preso. Comunque, con lo sconto che mi ha fatto, mi è venuto 350, una cosa del genere. Mi ha fatto uno sconto particolare perché ho preso un po' di roba. E mi ha fatto una ventina di euro di sconto, dai. Più il trasporto è pagato. Allora. E vabbè, comunque avevo preso un po' di roba, quindi il trasporto diciamo che non ho pagato più di tanto, perché tu di me non la trovi? No, ti stavo chiedendo per curiosità, no? È 370 comunque sul nel negozio B, 370. Ma stanno diminuendomi, Bobo. Anche l'altro, come si chiama, il Cobra, costa di meno di questo qui adesso. Prima costava di più, te lo ricordi. Invece in Sicilia stanno salendo i prezzi di quello lì, dell'S9, dai. Capito. Allora, perché adesso, tanto per dire, prendi quello lì, con 100 euro neanche, ti fai la modifica come 48, c'è le mani laterali, c'hai tutto e via. No, ma questo qui non lo toccherei per nulla, è già completo così. Bombo, lo riprendo. Sì, a cappa. Ecco cosa vuoi toccare. Già va bene così. Tanto poi alla fine dico, ma uno cosa c'è da fare? Le bande laterali, se poi alla fine non le usa. Già le usa, aspetta l'estate, che senti gli spagnoli, gli inglesi, i francesi, ti insegno io poi. Che? E poi un'altra cosa, ma se io non mi comprendo niente di spagnolo, di inglese e cosa, cosa devo fare in Italia? O saprò parlare l'italiano? Non tutti, devi arrangiarti, parlare francese. Attenzione, mon ami, c'è qui quello della Sardegna che ti fa per di sì, è la station del Caromeo della Ville Sassari. Ma vamo nel micro le chiose. Torre Lua. Antenna. Che hai chiamato? Luca era, Luca Ariello. Aspetta, non c'è, ci sono gli amici, c'è più un certo modo anche... Ma la senta, avanti Pinocchio. Avanti Pinocchio, se ti ascolta, no? Buonasera Pinocchetto, ma io ti ascolto piccolo, ma più piccolo di piccolo, proprio una puntina. Metto che ti ascoltano come una puntina, piccolo piccolo, l'unico sono ad ascoltarti io, Pinocchetto. Sta mangiando i giovani ricchi, li riprenderò poi a letto. Allora in linea c'è Pierpaolo, c'è Gianni Doppiuru e Luca. Ti sbagli, c'è Antonio. Luca ti ha salutato, Gianni penso che l'abbia ascoltato. Io l'ho ascoltato ma piccolino. Dimmi se mi ascolta a me, almeno piccolo, se mi ascolta lì. Perché a Pantala se diceva che arrivo bene. Pinocchio, lo ascolta? Budusoe a Pantala. Ah, Budusoe. Pinocchio, come? No, io sono... Allora, più in alto di Olmedo. Più in alto di Olmedo sarendo verso Sassari. Sarò a 6 chilometri prima di arrivare a Sassari, in una campagna, sperduto. Ah, bello bello, già lo so che sono bello bello. Trattore sono, che sto frenando. Mi prendi Gianni? Pagata. Io ho sentito poco. Ciao Luca, mi sento anche a te, dai. Avanti. Ciao, ciao. Insomma, era un bel filmone anche su Rai 1, eh. Davvero? Film di mafia, quelli che piacciono a me. Italiani. Ok, ok, dai. Quindi, ma come sta se ti affido Antonio le cuffie? No, no, solo col filo. No, già. Quella della Sisa, quella senza filo, come ti sembra? Sono per la TV, Luca. Per la TV vanno bene. Ma anche io no. Non lo so. C'è scritto TV. Lo stavo proprio guardando stasera. C'è scritto per TV. Io vorrei fare un accordioccio. 2000... 2008 mi sembra, 2850. Allora è 4.600, 4.500 mi sembra, no, 4.200, senza soldi, oppure 2950, una vita di 5 euro. E conviene con 5 euro? Scusate un attimo. Allora. Ripeto una cosa, Salvatore Popore. Ehi, Giappa, Gerpa, sono qua, ti ascolta, perché se sembra me lo vallata la cosa è tripula. Qui non schifo, Paolo, sono Antonio. Ah, che sei Antonio? Ehi, ehi, buonasera. Ah, no, non mi avevi riconosciuto. No, non sono Pierpaolo, ti sei confuso, ma tutti quanti si confondono, eh. Beh, quando lo senti basso, no, che c'ho tanta, tanta la recessione, Lo so, però tutti si confondono. Praticamente Pierpaolo con la 1 è mio padre, mi. KK, riprendi già. E poi per farlo c'è la voce più grossa, non è più grossa, qui c'è la tranquilla la voce. Per farlo c'è la bella grossa. E che fine ha fatto babbo tuo? Oh, già. Sì. Perché non siete giù una? Porta infari. Impari? Infari. Cosa vuol dire? Facciamo dire, riportano a porta infari. Impari. Va bene. Qua non basterebbe un litro. Prima che sei la tradì. E gatto. C'era qualcuno che gli bussava il campanello. Tu che non te ne sei accorto? Io non me ne sono accorto. Aspetta un attimo che mi stanno bussando il campanello. Lo sai chi è? No. Dammi. Abbattimento. Yeah. No, non è un bravo di Dio, abbattimento. Invece abbattimento, mi ha corretto Giulio. Dice abbattimento. Ehi, vabbè, adesso ci prendiamo Martessi, dai. Noi diciamo errore. Ehi, vabbè. E infatti, abbattimento, abbattere. Vuol dire che non ha segnale, che ha fatto il segnale, potrebbe essere anche così. Infatti, comunque se già si capisce lo stesso, dai. C'è problema. Oh, iaia, carità. C'è un bel filmone a Rai 1, già. Sto guardando, c'è un elicottero della polizia, bello. Per quello ti piace. Ho visto l'elicottero che ha fatto il fratello di Roberto, ma bello, fatto nel mini particolare, veramente bello. C'è un congelato grande. Diciamo che l'Emilia non è un modellino piccolo piccolo, è quanto una vetrata, una vetrina. Quanto una vetrina, cioè? A parte è diviso, no, la cosa, ci sono divisioni. Ogni cosa c'ha la macchinetta, c'è cose, e lì fa praticamente grande quanto un pezzo di bacchetta della vetrina. Ma cosa adesso quanto è grande? Cioè, più o meno quanto una di quelle macchinette telecomandate, più o meno. Sì, sì. Bello, c'ha le proprio veliche grandi, veramente bene. Infatti Roberto mi stava dicendo, ma quello se si può fare lì di quello di Luca, non ci vuole nulla. Adesso ho fatto in plastica già, ma è una plastica speciale, fine, sottile. Cioè, c'è un angiolino che lo sta controllando per vedere un po' cosa riesce a fare. Ma non me ne frega niente, sono giocattoli quelli. No, appena ho la possibilità vi faccio quello non molto grande, comunque quello dei Vigili del Fuoco. Poi quello ci stanno, quello carabinieri e polizia, e boh, fino a non mi piace. Io c'ho dei carabinieri. È una grande? Diciamo non piccolo piccolo, grandetto, li hanno regalato a Marco, l'ho messo come soprammobile, però non ero d'altro. E mi sapevi com'è già, se gira la lirica. Ferro pesante. Però pesante. Ma io volevo fare quello il modellino, quello da piazzare, ecco. Quello lì volevo fare. E ma stavo dicendo angelino, quanto che costava poco. Che a me sembra un piazzo, però piano, lì. Adesso vediamo, secondo me quanto l'ho preso. C'erano 20 di euro, 30 l'ho preso. Luca, te l'hanno preso, devi essere esperto a fare quelle cose. Te l'hanno preso, devi pitturare, devi fare, non è così facile. Io ho un amico che li fa gli aerei tutto quanto. Adesso sono un po' che non lo vedo, però faceva aerei che volavano più che lo costruiva. Vabbè, per veneziarli non c'è problema, allora Angelino. Lui c'ha il codo, c'ha il... Ma che si chiama? Quello che fa l'aerografo. E sarebbe? Per verniciare. Ma pistola. Allora. No, è miniatura, non me lo dico. C'è l'aerografo per verniciare, sì. Deve fare lui quelle cose lì. Perché lo rifà i modellini. Mi spone modellini e come? È bravo anche. Ma non volano più, quello che fa con mio amico volano più. Vabbè, non volano, sono, diciamo, come soprammobile, dai. Poi sono belli, ne ha un casino, ne ha. Un bene, ne ha. Già, ecco, non sono andato il palazzo, piano piano, non costa niente, piano piano, che vedete che ho fatto? Ah, io ho fatto. Vabbè, il coso non l'abbia fatto lui, però ho fatto uno scafo, di una piano piano, tutti i giorni, non so quanto ci ho messo, lo scafo del, non mi dico Vespucci, tutte pezze delle secchette a una, ma un casino già lavorare con le secchette lì, pure sta tutto quanto stuccato, poi risigato e via, e poi si è bloccato così. Non l'hanno finito. No, infatti loro volevano costruire, un casino, questa roba di roba, c'è un bel. Sulla costruire lo scafo ci vuole un po' di tempo. Io ho detto, secchette, chiudini, piano piano, non è facile. Tu per fare la curva vuole un po' bagnata, la secca, in modo che per la curva bene, deve essere bello, tranquillo. Non è facile già, Non te ne dico balle. Poi quando questa la parte rimane a punta lì, mette la stecca un po' più fuori, poi la tagli, poi la tagliata a filo, bene, è difficile, non è difficile. Infatti, se sbagli, cambi di luce, è quello che c'è, capito? Per quello te l'ho detto, perché se uno che lo sa fare, gli viene facile farlo, ma uno che magari non l'ha mai fatto, può sbagliare, rovinare il modellino, capito? Già, io non l'ho mai fatto, ma se tu vuoi mettere, sì. E io ho fatto, guarda, un bombo, però tutto stuccato, levigato, che lo sa, voleva essere liscio, lo potesse poter verniciare, bello liscio, E poi lì si è bloccato. Ma erano pezzi comprati. Allora, l'ho comprati da coso, su internet, da, ma come si chiama? Mondadori, mi sembra. Buon buono, ma che materiale devi fare, Luca, questi elicotteri? Non so che materiale è, non lo so. No, sto parlando della cosa, come si chiama? Della Merito Vespucci. Ah, capo. Comunque quelli che fa Angelino non volano, capito? Li fa come soprammobile. Belli, tutto quanto, però non volano, non li fa che volano. Invece questo mio amico li prende col motore, tutto quanto, il motore costa un bel soldi. Costa più il motore che sto lambalarando. Penso 300.000 lire allora costava. Quindi sono già, c'è un casino, E mi sarebbe anche piaciuto farne uno di quella motore, quello che è, vicino al fuoco, o carabinieri, polizia, quello che è, farlo volare, ma da lì due, meglio dell'aereo. Sì, ma se sbagli, che fai danno, ui. Già, devi fare pratica, ma sei sicuro che ti mi dà a te, cazzo, capire se parti subito dal Tauganeo. Tu sai, da un piano, te ne prendi pratica, te lo giochi. Credo sì, ma bisogna andare in campo molto aperto, in modo che non ci siano ostacoli e cose varie. Un campo di calcio va bene. Anche, non so, già si trova, ci sono, non so, si paga 10 euro, forse 20 euro, vai, ti diverti un po'. Ma volontario se c'è una società che fa questi aerei che volano, che ti hanno fatto un coso. Una rappresentazione in Piazza dei Segni dove c'è il capitolatore, la capitolatore, e uno è caduto, si è sbattuto sulle macchine, come non più la gente che viene, ma era grande, un bel grande, un aereo. No, guarda, proprio l'aereo mi piace, no, la verità, no, mi piace, meglio l'elicottero, già. Sì, più bellino l'elicottero, che a me piace più, ma se vedevi quell'aereo, c'era un aereo praticamente quello che è caduto, che lo perdevi di vista da quanto camminavo. una usanza, diciamo. Qui ha sbagliato la manovra, che boom, devi avere anche una vista molto buona. Ha fatto la vista e poi devi stare attento con il comando. Già, è quello, capito. Devi stare attento, cioè per manovrare bene, non fare. Se fa uno sgarro lì, ciao ciao. No, non è per scoprire di cosa, perché la cosa è che l'aereo deve atterrare, sì, poi deve avere un po' di spazio per farlo scorrere in terra, poi c'è l'elicottero, te lo piano, lo fai scendere, comincia a mettere l'elicottero e atterra quello anche qui di miniatura, dai. È bello, noi facciamo quello. La GBC sta 19.9, che ora? Perché avanti? È più forte, devo stare. È sotto, vedi? Ehi, ehi, no, ma mi piace già chi, no. E prima o poi siamo a coppia. Prima o poi, vado a fare un po' di scuola. Mi piace troppo già, troppo bello. Oppure, guarda, stavo pensando a una macchina, quelli di quelle a scoppio sempre. Mezzo di coppia. Non so, una macchina è più facile, per il conto è un po' più difficile. E vabbè. Ma se non c'è la passione si butta. Infatti. Natali, cosa mi stavi calpestando? Buonasera. No, sei tu che ci vuoi, non ce la fa. Cosa? Che c'hai il dito veloce tu. Ah, beh, ognuno c'ha le sue specialità. Stasera ti stavo aspettando alle 7:30. Dove era? In radio ti stavo aspettando e invece tu manco per le scarpe. Ma tu per non vuoi ci faccio fare un po' per il telefono. Oh, cari. Dimmi come stai a portare Infari. A chi? A me. E quando? Porta Infari. Ma quando però? Ieri. Sai che ho detto sì? Buonanotte. Ci riporta info, riporta info. Ah, Gaia, giusto. Prendi su tutto. Per Paola, va. Aspetta che mi hanno bruciato il campanello. Mi ha dato di intendere che cosa nuova. Mi hanno bruciato il campanello. Ma è capo, si bussa. Certo. Lui o no? Ma quello di Natalino bussa. Ah, è Natalino, Sai, quello mi sta attento come parli, A te lo che ti sembra lì. Come rientra la situazione mi seguo attorno a quel figlio. Dimmi? Sei uno? Sì. Questo è l'incontro della polizia poco fa. Ma sempre che non mi sei detto l'altro, che chi si occupa di morte? La Gilly Bates. Comunque un po' di cavolata se vogliono, se no non si chiamerebbe per 27. Quindi non bisogna offendersi, ci prendiamo per i fondi della vicenda. Per Paolo, per Paolo. La gamba di Rocco si freddica, sai cosa si dicono una con l'altra? Se dai, dimmela. C'è qualcosa di grande in mezzo a noi. Siamo anche un po' qui la parola, Questo è un pino. Non pianga. Ho perso già... Non mi serve di tutto, Non hai capito, c'è qualcosa fra di noi. Tra una gamba e l'altra cosa c'è, Luca? La tua voce, devi. Beh. Come dire, beh? Ma quello che ti fa ridere? E ce ne sono cattate che ti fanno ridere per il telefono, a me non mi fanno ridere, cosa c'entra, ma mi fa ridere. E le mie, lo sai cosa ti dico? Non lo so. C'è qualcosa di grosso fra di voi? Trasformiamo, va dai. Quindi si mangia le regioni. Ha sentito la verità, Antonio? Trasformiamo. Sei qua. Trasformate, aiù. Natalia, è quella barzetta al vecchio, la sai. No, via. Ho messo vecchio qua, praticamente l'ingegnere decide di fare una revisione di notte. Lo porto da stare in campagna, si vedono due fari. Dice, che cos'è quello? Dice, una macchina. Ma non mi basta, devi dirmi la marca, il modello. Dice, come faccio a vedere? Io non lo vedo, vedi i fari e basta. Poi passa, si vede una lampadina, dice, quella cos'è? Una moto. E che moto è? Se non mi dice il modello. Dice, ma il modello non lo vedo. Dice, mi dispiace, non è passato. Questo figlio ci pensa un po'. E lo chiama, ingegnere, mi scusi. Se lei vede una ruota incendiata e una donna vicino, che cosa pensa? Dice che è una prostituta. Non mi basta, ma chi è? Sua madre, sua sorella, sua cognata? Sì, praticamente è tutto il figlio di il grandissimo adesso. Che po'? Ma io che presento, lei c'è un'allegria. Perché non vuoi far prendere proprio a me? Beh, non bruciare il campanello. Che cattivi che siete. Ho pure visto il campanello di Musa, non l'ho mai inteso. Ma la sai che però, c'è proprio di Musa. Ma non hai visto mai la spagna nei contatti, mai. È possibile una cosa del genere? No, del fatto. Ah, non so, Antonio compra la spagna. Per intendere. Ma mica la latina, no. Non molesta gli spagni. Ognuno le prende come le pare gli piace. Che è piccina. Senti come Antonio che la vedi voi. Se ti devi dare un pugno, ci mette quello che vuole nei contatti, gli piatto. Mi sono sbagliato, io volevo dire Sprite, invece ho detto Sprite, vabbè, succede. Ah, beh, ma è parrilia io. E dai. Qua c'è gente bastarda dentro, che non puoi sbagliare, se no ti crepa. Come lo sei giù? Sai, come te lo messo a me, bello questo film, Guardando lo sto. Palermo. Cos'è, Palermo sono andato. Non so come il titolo, aspetta. Allora, vediamo un po', aspetta. La tentatura. Come? La tentatura. Scappa. È bello comunque già, Lo so, ma non aggiungano. A te televisore sono arrivati con l'ottore. Se si è vinta la ritirata. L'ottore se ne sono arrivati 300. Ci sono tutti quanti al centro del bar del distributore. Per ritirata? No, a me mi tocca il prossimo arrivo. Però mi prendo il televisore innovativo. Un televisore che migliori come tecnologia e tutto quanto. Questo qui non ce la fanno più a farlo, ne fanno un altro che dice che è migliore del Samsung. Più fa la tecnologia, più migliora. Speriamo che sarà vero così, che non ci siano televisori di quei grandi. Cos'è? Quella plasma. E quella plasma non fa la crisi. questo qui era Samsung, questo che davano adesso, adesso non lo so, ha detto che la ditta non ce la fa più a costruirli così tanti, e quindi ne sta dando un'altra marca, un'altra ditta che ha preso in consegna. No, ma già sono buone anche quest'anno, diciamo che magari è tutto un fatto di pregio. Infatti, si paga 120 euro di differenza. Già lo so. Il televisore varrà 700 euro come mio. Sì, una cosa del genere. No, ma però guarda, il televisore ma però tutti buoni, dai, non è perché uno è Samsung, oramai la tecnologia è quella, non è che non cambia molto. Invece prima era diverso. E io, ma però speriamo che sia migliore di questo. Sì, ma però secondo me è meglio il mio, ma però è abbastanza. C'è un programma, adesso non lo so più tanto, lo davano a Sardegna 1, ma però puntini, tre puntini, però. Ma che puntini c'è un'altra parola? Ma però. Poi se dicevo tu c'ho un capo, dicevo un capo morbido, tu, aspiralato. Aspiralato? E non te lo metti neanche. Quanti metti nel cavolo ormai aspiralato, Ma è paro così. E tu aspiralato, Spira, ma cosa è? Tu come è tu? Tutto così dice. Fatto acqua, ma. Ah lì, ti dà, come puoi chiamare? A molla, a molla. Prendi il capo che c'hai del micro, te lo leghi al collo, e quello lì è aspiralato. No, già ho capita. Ho capita, ci ho pensato subito, l'ho capita. Ora aspiralato. E beh, di cosa me ne vuoi qui sul capo? Aspiralato, il capo, lo tiri e molli. 17 a tu. 7 figli. 17 figli ci ha detto. Ehi, ehi. No, troppo aspiralato, no, va bene. Tu non aspirato professionale. Come ha tutto tu, già. Che c'è su figli? Vai, ne avrà anche ho 4. 5 ce ne so. Ma tu mi sembra già visto io. Ciao. Ecco. Comunque tu, non mi dare retta a Luca. Non mi dare retta. Già ce l'hai tu le cose che ti accompo. Vabbè, ma per adesso non mi serve niente, c'ho tutto forte e chiaro. Se mi serve qualcosa, già va bene. Ma tu, quel preamplificato dell'antenna funziona? Sì, l'ho provato io e mi sembra che vada bene. Se io l'ho provato qua, se funziona. Dice al massimo, ma un po' insomma, se hai te lo aumenta, dai, quelli più bassi. Luca, quello che ho tirato io? No, ma vado con dove? Ah, ma quello della ZG. Ma era tutto una puttana da lì, no, con tappeti. Mi sono preso questo R4. Il coso da dietro, con la TPL, avevo fatto di poli con quei coso lì. Che le manoppa. La manoppa, che cazzo è arrivata a Franco del Tauro? Però ancora la fa mia, tanti questi cose, già funziona, no? Non è che ho visto che funziona, però non è il massimo. Ma me l'ha fatto Stefano, ma è toccato un uomo che non l'aveva mai usato. Ma l'ha regalato Stefano. Ma c'è che interessa un uomo del tuo marito? Perché da Natalino si è finta c'è la fratella che mi scappò? Bello questo, è un buon calcio marino con la cornetta, e il macchio è una cornetta telefonica. Tutto va a chiedere se il fratello di Natalino può interessare a qualcuno che viaggia in mare. Anche a Roberto Quadrato. Che lo dice là, là, là. Perché c'è l'imbarcazione Roberto, magari lo usa. E Marino io non ho mai avuto bu. Per quel poppa non va. Poppa non fa? Perché anche la diversa gamma rossa e spingono un bel, un bel, un bel. Sei trovato, Giammi? Che cazzo? Bestiale. Un po' forte quello lì. Ma ti interessa? Bisogna chiedere, Lomi. Te lo dico anche per chiedere. La Salvatore Maestra a coso a Roberto Quadrato, che c'è la barca, e poi a Natalia se lo dice al fratello, magari che può servire. Oh, non voglio neanche soldi, voglio scambio di qualche cosa, Mike o qualcosa del genere. Io non ne faccio nulla, se no avrei voluto fare, ma non mi devo nulla perché non c'è un barca, io mi devo comprare la barca, se no comincio dall'apparato. Inizia l'apparato tu. Cosa? Inizia l'apparato. E ma pure se avessi scelto di fare la barca. Inizia anche l'apparato a attaccare, no? Ma non mi ricordo Beppa. Adesso ho trapparito pure. Mi interessa un trapparicchio. Un pure. E di quelli non ce l'ho, Provo a piccolare, Beh, non No, un attimino che sto giocando con Marco, un secondo solo. C'è la peste, la cusa è il ciao. Sto giocando con me, Voto tu, Pacinietto. Feo, muto. Come è il buffi, Rodeo Fiare. Voto Feu, Facinietto, Bilanza, dritto. No, non ti sento, c'è delle cuffie io. Spegni la luce. Oppa. Ma stasera siete tutti quanti zitti zitti, bobo. Sì, guardando questo figlio che sto anch'io. Io ti ascolto sempre, non è che... E non si possono fare due cose in una volta, uno guarda il figo o sta la radio, Io infatti non ne ho mai sentito il visore qua, per questo non ce l'ho. No, io praticamente lo guardo molto, appena il volume, ma niente. Guardo la figura solo, perché no, non mi piace a me ascoltare con una cuffia solo. Se ci prende? Invece si fanno da riprovare. A me invece piace sentirlo tipo serio. E io infatti ho sentito tipo serio, sono tutti e due le parti. Ma dico, come fa a capire un film se non lo senti? Ma si chiama auricolare o auricolare? Auricolare. Certo, auricolare. Auricolare ho detto. Ciao a Giulia. Ah. Auricolare ho detto. Come? Auricolare. No, tu hai detto auricolare. Ecco, questo è la in TV, auricolare. Ah, per fa, conferma tu che lo senti meglio di me. Certo, già per quel momento stavo cambiando l'apparato. Già mi senti bene tu. Io ti sento bene. E figurati. No, non mi sono riferito a te. Forse è un po' il secco, ma è che due. Scusate, sì, non ce n'è ecco qua. Ma. No, non ce n'è ecco, ma che? Ce l'hai forse pure, guarda, le rotelline, ti diamo bene, tu dato un gol in mano. Ma si sente bene per fare, non c'è niente lì. Si sente benissimo. Sì, vabbè, ma adesso se lo toglie del tutto, se non c'è anche meglio. Sì, vabbè, lascialo fare. Oh bobole, gabagaba. Via, cavagava, sono qua, vi ascolto. Le vostre discussioni, capo. Sì, quel bobole è bello qui, dov'è? Tutto impastato, via. Io non lo sento impastato, io lo sento benissimo, ma non bene, benissimo lui. Come fa a dire che è impastato? È bellissimo quella motivazione, è chiara, chiara. Io lo ascolto bene la vita, e poi lo sento benissimo. Solo se tu metti il microfono a letto, non siccome c'è la voce sua grossa, c'è ancora più grossa con quel microfono a letto. Io per poco lo sento benissimo col microfono normale, con il 48. Questo è troppo alto, mi sento il passo. Questo io la voce grossa non ce l'ho. Così bene va. La Luca, bene va così, bene va. Senza l'eco, non l'eco più adesso. Adesso va bene. Ma è stato lui, tu non lo porti bene che fa. Cioè già se la voce grossa è il tuo, poi con quel microfono lì è ancora. Mamma mia. Sì, ho capito, bisogna che mi faccia anche l'operazione. Ma io però la voce grossa non ce l'ho, ce l'ho meno grossa. Ma tu hai la voce brutta di orco. Ma la mia la voce grossa con questo microfono per fa. Tu fai strillare. Io strillando io. No, non è grossa, anzi sì, No, ma quella d'Antonio non è grossa, è che molto il maglio lo fa così grosso, se no lui la voce grossa non ce l'ha. Che hanno pochi bassi, che hanno molti acuti e col microfono li regola bene, perché anche a me mi li regola. Questa qui è stata anche un'osservazione che ha fatto Claudio, che ha detto che quel microfono è l'unico che mi andava bene, perché faceva diventare la voce più grossa. Ma tu c'hai fine la perfetta, capito? E trovare un mic che ci faccia la voce, a te cosa faccio? Trovare anche la faccia la CBC, fa un affare. CBC? Se lo metti davanti alla bocca, no, elettrico, elettronico, cosa da cavolo è. E ti fa la voce anche da signorina. da bambino, pure grossa grossa, e lui comprò di quelli lì, è blu adesso. Ha un microfono? È una specie di un affare, no? Che lo si deve anche attaccare al telefono e si cambia la voce. Adesso provo a comprarne uno. Io lo voglio vedere, interessante. E tu guardi che da morte, ciao bella! Dov'è che lo stanno vendendo? HBC. Kappa. E tu adesso lo voleva comprare l'altra volta? No. Io ho detto, invece dico io, un pezzo di mattone tirato nel biglietto e fa la voce più e più. Ma a proposito, la sai che la barzelletta di un ruggio? C'era lì il titolo che andava in ufficio a lavorare e quando entrava la mattina, ma buongiorno! E tutti i tanti, prociù, lo prendevano in giro. Allora è andato dal medico, gli ha risposto questo problema. E gli ha dato questo mattone e gli ha detto, ce l'ho in giro, tu vedrai la voce e so. E così facevano la prova, ma a casa prova, e chiamò la moglie. Maria, quanto è da mangiare? Se dice bella, già funziona. Qua è il primo giorno l'ufficio. E come entra? Buongiorno! E tutti quanti, oh, che cosa avrà fatto? E così per una settimana, finché un giorno esce di casa, va in ufficio, entra in ufficio, buongiorno! Oh, cazzo, poi prende parte, sono dimenticato il bastone a casa, entra, bussa alla porta di casa, apre la moglie, dice, Maria, hai visto il mio bastone? Non l'ho visto. Io, buio. Io la sapevo diverso. La sapevo praticamente del tipo che va al bar. Ma viva! E dice, oh, guarda, vabbè, al dottore le va a girare il coso del bue, però. Dunque non esce lo stesso. Che cosa? Cosa va là? La miccia del bue, eh? Mio! Tu. Eia. Che ancora hai preso? Davvero? C'è un bambino all'ascolto. L'ho detto mille volte. Ci sono signore e signorine all'ascolto. Stai faccia protetta, tu dai, sarà bravo. Vabbè che io metto le cuffie proprio per quello. Eia, rimpara. Lo so, ma tempo a tempo. No, per mamma tua era il tizio di ghiacciata a bocca. E vabbè. Ah, attenti su mamma tua, io pure, tu. Vedi figure. Venivo a ghiacciata a bocca a me. E se non mi dice mamma tua, papà io penso che mi dice. E vabbè, dai. Adesso non fa neanche fatica a venire lì, vieni giù qua. Dai, ho detto, ma buddo e l'ha trucciato. Non devo trucciare, più no, sto guardando questa cosa. C'è un bel discorso. Chi sa che lo trovo a campocco. Sai cosa che su cosa che ha fatto? Quanto costava tu? Una ventina di euro mi sembra, no? 20, 22 euro, così. Una cosa del genere. Ma non parlo di più pure io. Ma io da già. Quello che cambia la voce, la fa grossa, fina, la donna. Ah, capito. Tipo mi sto facendo voi il bombone. No, non è il microfono, è una cosa che si applica ai microfoni, così è, se non ho capito male. Principalmente serve per il telefono, no? Lo attacchi alla cornetta e ti cambia la voce, te la fa da bambino, da femmina, e poi grossa, oppure tipo da papirino, così, no? E c'è già un certo autobus, qua di terzo. E ce l'avevo già vinta. Sì, l'altra volta mi sono andato, cioè Arturo, ti sto dicendo, se lo stava per prendere, poi non l'ha preso. Era lì, era CBC. Cappa. Mi sono il cattaro, c'è anche il cattaro, guarda ce lo controllo, non ce l'ho. Oh. Sì, sì. La Fusaro. Senti, va. Allora, la Fusaro per qua. No, le CBC. Ah, ti vinci. Ah, ti vinci, capo. Deve essere carino per fare gli spesi al telefono. No, anche. E poi devi nascondere il numero, cioè adesso si appare anche quello di casa. Lo so. Ma sai che ci stavo telefonando la notte alle 3 di mattina, alle 4 di mattina, adesso lo sto staccando. Sono già 4-5 volte che ci fanno questo scherzo. Per dire di chiancare di rimani. Non è una cosa bella, Non è una cosa bella. Basta fare la denuncia, se arrivo. E poi lo rispondo, capito? Ascoltami tutto. Ah, fa la denuncia, già, ma in questo è fa la denuncia. Ascolta, lei vuole telefonare di notte, di notte alle 4, 3, 4 del mattino. Cosa devo fare? Poi lo sai cosa succede? Che ti fate tremolare, perché a quell'ora lì più che gente che sta male o darti brutte notizie non ti telefonano, capito? E poi non ti fa più dormire tranquillo, stai con l'ansia. Già, ma non è che se stai disturbando e mai non si sta lamentando, ah, ti fanno questi scherzi. E uno si alza alle 3 di mattina, alle 4 di mattina a fare questi scherzi. Secondo me stanno comprando le sedie a casa, che altro. No, sarà. Ma fai una bella denuncia. E così siamo la tua bella telefonata. E fa, lo fa senza numero, capito, privato. Non ti preoccupare, se è un numero di casa che nasconde il numero, già esce. Se vuoi un orologio lo fanno apparire, come? Ma perché che quello di casa si può nascondere? Certo. E io ve lo metto sotto controllo, già lo so. Fa una bella denuncetta, poi vedrai che non troppano più. Non troppano. Perché... E quando ti è successo questo anche? Anche avanti di notte. Tu vai e rinunci. Vai a fare la denuncia. E poi vediamo loro cosa fare. Niente pure a procedere. Perché ieri notte l'ho staccato. Adesso si attacca al capo. Perché lo stacco tutte le notti. E si può giocare con un bici. Vengono a casa. Sei gentile, Ah, io problemi non ne ho. Già sono armato a casa, non ho problemi. La voglia. Ma sicuramente tu devi andare a fare una denuncia, perché non è possibile. Uno che telefona a quelle ore di notte vuol dire che sta tentando qualcosa. E l'altra mattina alle 3:15 ha telefonato, l'ultima volta. Un'altra volta alle 2, un'altra volta alle 1:30. Cioè, non c'è troppo niente. E cosa mi sai se tu magari che questa cosa pure notte? Ma non penso. Non penso, secondo me no. Tutto è possibile. Ho già anche se da un telefonino. Però riescono a sapere chi è, capito? Sa, fanno cosa ti posso dire? Che fanno una telefonata da due telefoni, uno che chiama un altro, quello che parlano di droga, lo chiamano anonimo. Guarda che non usa niente un numero. Vabbè, c'è che stiamo scamando di Greff così, di queste bande strane. E sanno anche dove vanno, dove si recano, se il telefonino è acceso, tutta la traiettoria li indica. Lo so. Posso. È tipo. Quanti posso dire? Vabbè, via sempre via cosa, dai, non si dice via. Sono passati ormai 100 anni. Ma, mi viene cosa, via. Muori con 5 anni. E via. Senti. Via Santi. No. E comunque. L'hanno fatto, adesso infatti anche quella di Succia ha chiesto, ma chi è che vi chiama a quest'ora? E tutte le notizie mi sveglia, e io che colpa mia, ho detto signora, adesso provo a staccare il telefono, perché se mi sveglia sempre, dopo non riesco più a dormire perché mi spavento. Quindi, la buona una cosa nel paracetoglio. E non già si sente con la sorte, si sente la scrivere al telefono viciniale. Però per voi una cosa è dubbicante di rotti di là. Io sono i muri fini e quello la ringrazio. Ma tu dia già Gianni un casino, No, io non ne faccio dopo. No, ma che riflessioni facciate, mi chiediscono che... Tu la voglia non è mai nuda. Chiedi a Luca quando stavo andando a casa. Io le stavo mettendo a posto un apparecchio, stavo memorizzando i canali. Ci avvicinavo adesso e mi scorreggiavo il mio ubriaco. Chissà come te maniaca. Fantastico. Mi avevo di gambari pratiche. Maria, per fa. Sì. Ma tu non capisci da Gianni, no? No. Sono in camera, mamma mi sta ammazza. Ma se non fosse drutti non fiati. Poi ci vedete che sa che cazzo non fosse buio di drutti. No, fiaccheggi. Non fiaggo noi se non mi voti. Ma vedete chi fiagga, chi cambia un passo fiagga anche che salvare. Ah, che succede? Come sei tu, senza aiuto. Mamma mia. Fiagga di tu buccia. Vabbè, già, sa ci vuoi fare. Gaia, sei giù conto. Cazzo, non è qualcuno. Mamma mia. Ma quando si corregge è una fogna. Io ne conoscevo uno che quando lo faceva, te la mette Edoardo occhio. E io me la metto, già. La verità mi ricordo di più di cosa, di Massa, di Giamma. Io me la metto. E bar di buco. No, di... Ma... Era partito. Come si chiamava? Quello che è stato mandato via, dai. Giacomino, lui ci maglia, ragazzi. Mi bando rombe, quindi carburato. Cazzo, dopo non avevo mai coraggio di dire, guarda che io odore non è faccio. Cazzo, li pigliava lentamente la barcone, cazzo. Povero Maccio, ho fatto una tagostina l'altro giorno. Oh, sì. Una volta ne ha dato uno dentro la macchina davanti un cinghio. Si è rifiutata anche la macchina. Cazzo, un fiago di digerire per rimarci una dita. Allucinante. Ma adesso passi a Gianni, io avevo memorizzato i canali da un apparecchio. E tu passava, muto, urlava, si avviava. Se ti chiama tu che lo dici, no, che si vuoi arrivare a voi. A modigliare. Ma chi è che chiama? Una voglia. La voglia è profumata. Oh, Didi, Didi, che non attaccare via per Paolo. Basta finire di trovare, Ma del fondo non l'abbiamo mai raccontata. Belle? Del fondo. Quella è stata la cosa che abbiamo fatto tre anni. Però ci racconta di quando il buio, diciamo, muore, sta cadendo in terrazzo, del fatto, racconta a Vila. Non me l'ha messo. Si è fatto nel lignetto, va. Si è fatto qualcosa, è fatto un casino così, in terrazzo. Ehi. Ciao, cosa hai combinato? Ah, cosa è incasato, no, dopo questi spruzzi, che mancava il coso. Il, come mi schiaccia che c'è la vernice, no? Qui è stato il cacciavite, ha fatto un casino niente. Siamo andati, come c'è stato, è stato il cacciavite, è rimasto bloccato, qui sta il coso, che tu vuoi fare la modestia. Sta tutto a retto, poi tutti i mattoni di niente. Che è Gianni? Oh, non se conosco io, non dico il nome, è andato a caccia, no? Era a caccia grossa, erano almeno una quindicina di cacciatori, e gli è venuto, erano tutti in posta, no? Gli è venuto uno stimolo e è andato dietro un coso a fare, no? Da trovare un po' dove è andato il tuo viaggio, il suo figlio di acqua a volta. E guarda che sei più in macchina. Io pensavo che avevano imparato da ridere, che avevamo se ci spugli, l'avevo sparato. E mai fare queste cose. Ma quella te l'ho sparato in faccia, lo sai. Oh. E io, un amico suo stesso. Era una cinghiale, il coso. Meno male che... No, non la cinghiale, a cosa, la pernice è a lì, il coniglio lo mangia. Guarda, per cespuglio, a pisciare l'ha spostata per la pernice cespuglio, la mica per cespuglio a spostarsi, pum, l'ha sparato in mezzo. Certo, via, e mai andare a caccia non si va dietro un cespuglio a fare. E poi, secondo la regola, devo anche avvisare. Ma è una... Comunque alcuni li hanno tutti nella superficiale, gli altri gli hanno detto perché dobbiamo deturpare tutta la faccia, cioè tagliare e togliere, quindi non si immagini come le facciamo la faccia. Se ricordate di questa superficiale se ne ha fatti tutti, gli altri li hanno lasciati, ha preso proprio come una bila da urci. Beh, ma qua se no vado a cinque. Beh, una volta è andato a mare quella volta lì. Era anche bravo, quello è stato sempre bravo a caccia, portava un bel turni, ma un bel barone, un cofano di cose, il Renault 4, pienava. Ma già, quando si va a caccia però queste cose si deve fare molto attenti, se si è in compagnia, deve stare attenti, perché... insomma, le regole della caccia poi sono quelle che sono sicuri, bisogna avvisare quando si fanno le poste e tutto quanto, bisogna avvisare. Magari è stato spavento con un momento lì, chi lo sa, o ha avuto bisogno urgente, che ne so, però te l'ha fatta al proprio soccorso, già nemmeno un soccorso che mi ha sparato a faccia, te l'ha sparato. E cosa c'è? No, non è più preoccupante, qualche pallino, cosa mi dà, una rosa. E certo, ma qua è andata bene. Perché deve essere che non era una caccia grossa è un rischio enorme. E poi se deve fare sempre una posta, dicono, non so, magari ha fatto una cosa molto impulsiva. Non sai che qua sparano a palla, però il continente, questo amico mio mi ha fatto vedere che erano umano, e vanno a caccia al cinghiale e sparano con Winchester, c'erano praticamente delle cartucce appuntite, allucinanti, fa male nei lunghi lunghi. No, le cose non si può parlare con un gesto, no? Io ho detto, qua no, qua non è contento, sì. No, tu lo sai che è dappertutto così, e non mi sono visti il gesto, a tiro singolo poi la caccia grossa non esiste più, tiro singolo ce n'è a tre palle. Qua mi ha fatto vedere il fucile che proietti, sono appuntiti e saranno lunghi, posso dire, una ventina di centimetri. È la costola cardiciale di Cesare, è male, tutto male, mi dicevo, sempre cosa che non si può usare, la usano, ma non si può usare, che io sappia, è così, che adesso è dappertutto in tutta Italia, è così, che il tiro è a tre palle, la palla singola non si può più, neanche per l'antimafia, la palla singola è già, mi pare, 7-8 anni che non si può usare più. Comunque questo di questi leggi qua si può usare solo a palla e basta, non si può usare altra roba, invece là si può usare anche la cartuccia blu, proiettile. Io l'ho mangiato anche il signore Giuppè, è molto bravo, siamo una compagnia molto brava, li prendono sempre i signori, ogni volta che vanno li pigliano due, tre, sempre. E me l'ha spedito un pezzo di cinghiale. In un giorno posta aerea via e me l'ha messo in quell'affare per fridere con del ghiaccio. Poi non so che è arrivato ancora col ghiaccio. Sì, addirittura. Sì, sì, col ghiaccio mi è arrivato, non si era ancora sciolto quando è arrivato. Poi l'ho fatto, l'ho cucinato e mi ha mandato anche il fegato, un pezzo. Una coscia, un pezzo di coscia, e quello lì è del piccolino, di quello piccolino che hanno preso, un pezzo di coscia con una parte di, tipo un porcetto là, ma un quarto di porcetto, e poi mi ha mandato il fegato di quello grande, e basta, e si l'avevo mangiato. Come ti ha spedito già? E l'ha messo in un cartone, l'ha messo prima, ha detto quelle buste, visto quelle buste che si usano per i surgelati, quella roba lì, l'ha messo il ghiaccio dentro e l'ha messo in un cartone, tutto quanto ben imballato, girato 50 usi con nylon, cosa. No, ma dico via aereo, via mare, per posta, com'era? Posta un giorno, di un giorno, ha fatto sperando oggi e arrivandomi lo stesso giorno. Da arresto lo sai. Perché? Già, e non lo sai che non, il maiale così non si può spedire. Cioè, non lo sai come si spedisce. Immaginati tu, se io devo andare in paese a prendere il maialetto, devo fare il bollettino da paese a qua. Ecco, non è che bisogna fare il bollettino in comune. Ma me che c'ha scritto che c'era il maiale, cioè, mi mancherebbe. Anche noi a volte gli spediamo formaggio. Spediamo salsicce, spediamo preseadas, tutta la roba santa, tiricche, tutta questa roba qua. A Natale che noi abbiamo fatto un pacco, le abbiamo messo tutto, le abbiamo messo tiricche, abbiamo messo formaggio sardo, di Gisumono, poi invece le abbiamo messo seadas, dolci sardi, papassini, sono piaciuti un bel papassino. È un altro bacio di mani di questa roba, il maiale quando varca confini, quando si sposta da un paese all'altro, proprio il maiale, ovvero sia cinghiale, ma anche maiali, variati normali, quando si spostano quelli lì, devono essere controllati, cioè adesso il bollino del comune di uscita, altrimenti si sono delle sanzioni molto gravi. Non so, ma anche la droga spedisco, non si può spedire, almeno quello lì non è roba genuina, non è roba che fa male, spediscono la droga per posta. Anche mio compare che ha il figlio sul continente, lo faceva sempre, un giorno, poi io sono passato dei controlli un po' più accurati perché sotto dove c'è stato, portava sempre più dei maglioletti, un giorno l'hanno portato, e mi hanno sequestrato le valigie con i maglioletti vecchi. E che non, cioè, devo passare con i controlli, non sono molto accurati, ma la gente mi si rabbrica, mi trovo un campo di amari, ecco. Lo so. E infatti me lo voleva mandare anche alla tana, ma c'è stato il rischio. No, no, già, non ti preoccupare, questo è quello là. E lui va a cosa? Ma non mi viene il nome. Che parlano, se sembrano di cose di Roma, però non appartiene, il nome è nel Lazio. In Umbria rimane, ma non mi viene il nome. Vabbè, comunque va lì, in Umbria, nelle montagne dell'Umbria, va. Vabbè, lì c'è che è pieno, ce ne sono un bel, non ce ne sono più che qua. Carolina di Umbria, Famuglia. Io vado un attimo a cambiare l'acqua agli olimpici. Avanti, Natale, sì. Natale sta guardando il Facebook. Ma buone. Maria, già c'è ancora Bobone. Beh, Bobo, poi per preso neanche i cinghiali, quando sei andato. Io ci sono andato 5 giorni e ne abbiamo prese 4 giorni e 5. Che aspetta, è una bella compagnia allora. Ma mi pare che hanno una razza diversa lì. Aspetta, come si chiama? Mare e mare. Sono loro in Toscana. In Umbria. Il maremmano è incrociato con un maiale domestico là. Allora la razza maremmana che fonda grande. Scattano di pigliaduro, allucinante. Ci avevano un pick up di quelli fuori strada. Tutto un cassone pigliava, ci augura pure, ma mano barone. Anche questi che ho visto stasera erano belli. Cos'è? Altri sono scappati. No, ne ho visto tre stasera, dalle 7:15 alle 7:10. Ce li avevo sempre davanti al trattore. Che sono scappati? Allora non gli dà fastidio, invece che stavano attraversando per andare a mangiare. Erano sempre a testa in alto, così, guardando le luci, andando davanti, andando di fianco. Tu così si fa, lì a Portoferro, non so quanto ce ne sono, una notte abbiamo fatto una simulazione di un naufrago che era naufragato, praticamente non si erano più saputi tutti, si stava parlando con la capitaneria, questo passa via radio. Ci dobbiamo andare a cercarlo, noi come protezione civile, siamo andati con le rover dentro la pinetta. Tu devi vedere che tu li sono fuggiti di voi. Ce n'era, adesso gli hanno diminuito un po', ma adesso sono verso più Porto Conte. Oh, e anche il lago di Bara, andavano a bere, una volta alle 4 di mattina sono andato a fotografarli perdendo nell'acqua, quando c'era la passione a fotografare. Ma prima, adesso c'è poca roba, c'è poco. L'hanno battuto domenica, al lago di Bara, c'è tutta la pinetta che non è riserva. E non ne hanno alzato neanche uno. Davvero. Prima lì la zona, che attraversavano cazzo, le macchine pigliavano in pieno. Bisogna stare attenti perché c'era un... Allora ti dico una cosa, una notte a Fertiglia ne ho contato 21 e io sto lavorando lì a Fertiglia. Figurati, allucinante. Vabbè, quindi state mangiando cinghiale queste pizze, lo state conservando. Via, avanti che vuole entrare. Nessuno. No, adesso non ho più palle che sta mettendo la portata. Deve essere, bro. Cioè, negativo. Ho sentito questo fumo. Che cos'è secondo te? No, non è roba di qua vicino. Mi è arrivato anche la notte. Gianni. Oh. Per un paio di giorni la portata siamo a posto. Oh, perché? Non hai lottato. Che non c'è? Per un paio di giorni o meno. No, appicciata. Ah? Appicciata. No. Pigiato. No, non ti ho fatto io. Ah, ho capito. Ospitato. Yes. Che appassionato che chi dà? E da poi dimmi di non mangiare io, no. C'è la che chi dà? Non ti accorgo, è un paio di giorni. Hai visto? Quel tic tic tic non c'è più. Tac tac tac. Poi il Lucetto Moro in compagnia di Gianni è per stato di che sarà anche Ma già mi ascolti con le coordinate avanti chi chiama? Il Lucetto Moro stava chiamando già tu lo ascolti a Pinocetto prova Pinocetto. Sveglia, buonasera. Pinocchietto. Gianni. Oh. Non ci arrivi là. No, è una roba per me. Solitamente fino a Pattara tranquillamente. Poi non lo so, Buduso non l'ho mai fatto, sì l'ho fatto, ma Buduso mai, non lo so, forse è una roba per me. Comunque l'ho sentito basso basso e ho detto, eia! Chi è? Io Vulcano, non c'è Vulcano qua. C'è Bobore e Gianni doppio ru in queste coordinate avvicinamento a Sassari qua qualcosa più pio. Ehi, sono ancora a rientrare Pinochet, sono più su di un metro andando verso la Lambriga. Così sta qua. Dovrebbe entrare anche cosa Giovanni, però deve essere che sta mangiando ancora, è già 3 ore mangiando. Un attimo che c'è un break, lo facciamo entrare un po'. Ah, io sono Alex, volevo vedere se sta uscendo bene. Sono Alex. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 14, 24, come sto arrivando? Senso segnale di Luca, ciao. C'è alternata, Alex. Perché sto provando un apparecchio? Io ce ne vai su 45 macchino. Perché apparecchio è, Alex? No, è sempre lo stesso, ci ho messo la cappottina, capito? Però faccio un rumore, questo mi sta tirando male in trasformazione. Si stacca la... Sì, si male sta uscendo. No, è da sede però è... Ma non è che magari è perché è troppo vicino, Perché è alimentato l'acciaio. 5 massi, 5 massi. 5 ampere, non ti bastano i... Solo per il trasformatore ti basta, per le miniature. E a me mi sa che ci vuole un altro trasformatore a parte per te. No, basta che ne prendi uno grosso e va bene per tutti e due. Vero, sicuro. Ma perché già ce l'ho un altro per provare a vedere se funziona. Io, ma vabbè, proseguite ragazzi, scusate per prima che c'è uscita una portante che dovete parlare, ma anche nel 9 mi avete fatto. Nel 9? No, io no. Comunque è accurato il così, che l'ho fatto anch'io, quindi ti sto dicendo per cosa provata Alex. Se tu prendi un alimentatore da 28 ampere non hai nessun problema di attaccare sia l'apparecchio che questo. Tu dici che questo problema che mi sta facendo è derivato proprio dal trasformatore di cuore di compagno. Questa qui è un'alternata, trasformatore che sta facendo. Va bene, allora provo a continuare. Chiaro chiaro, e prendi tu quanto? Seglia Alex, ma casa tua caffa in posizione, adesso vado e prendo un trasformatore che sto qui a casa e provo a passarcelo. Così provo a vedere con questa alimentazione. Ma già va bene, dai. Cioè ci vuole un alimentatore forte, altrimenti ti rompota e non esci bene. Ma stai usando quell'antenna? No, sì. E qua stai arrivando chiaro chiaro staccato. Ehi, è uguale alla tua, Sì, stai arrivando bene, senza né bruscire né niente. Perché ora è spenta la cassettiera, adesso prova un trasformatore a parte, alimentarlo a parte, capito? Che sia forte, che abbia forza, perché altrimenti è peggio andare un luce. Continuate che c'è una presenza. Va bene, Gianni? Ehi. Pensavo che mi lancio io, sono andata a Luca, che non sta parlando ancora. Luca? Mi sto parlando con il marraio, già, ripeto il buio, e parlerò poi. Per Paolo. Veglia, dimmi cosa ti devo dire, dai. No, quello che vuoi, per fare perché. Se tu ti stai addormentando cosa riprendo? Hai fatto mano a mano andende e lo sentite più, manco la voce. Perché ho allontanato il microfono, adesso si sente caro. Metti un puntello, fissa il metro, misuri e ci metti un puntello, la fermi la mano. Coppa! Va bene così. Olimpia Paolo. Sarà, ma mi sta venendo una mezza intenzione. Ho un sospetto. Che cosa? Ma, ho un sospetto che mi sa che sto per... Ho voglia di dormire. Hai voglia? Dormito sì. No, mi stanno pizzicando gli occhi. Perché siccome sono un po' di notti in quasi in bianco per questo dolore. E stanotte siccome mi sto lasciando un po' in pace. Mi stanno pizzicando gli occhi. È una cosa strana per me. È la stanchezza, magari. Perché io di solito, se non è la una, una e mezzo, le due, dopo che non si chiudono gli occhi. No, a me sì. Delle volte mi attacco per farmi vedere il sonno, mi attacco al computer. No, io non ne ho bisogno di computer. io bisogna lasciare la stazione subito, ma qui. Ma lo piccava di tono a te, invece di trigliere. Ma te la stai resistendo, quindi? Perché c'è un cacciato. Ieri sera sei sparito. Proprio dormito, è proprio tutta mia moglie, ma l'aspetto sicuramente. Perché ho sentito, io non sono entrato, ma ho sentito che sei sparito. Per parlare di un attimo. Io gli ho preso perché sei sparito. Che tutto so. E ne parliamo veramente in verticale. Coppo. Però già, ma più di una volta devi rimanere acceso il barretto. Ma se il timer che spegni tutto. Quasi di bene. C'è il timer che fa spegnere tutto. C'è messo il timer. Cioè praticamente se te lo dimentichi acceso si chiuda la tua bugia. E lo sai che è il tema, mia moglie passa come lo vede acceso premo l'interruttore generale e lì. Tua moglie. E allora quando viene a letto vede tutto acceso, prende e spegne. Perché lì non lo fa spegnere i pulsanti. E no, lì preme. No, già lo so usare, non è che modulavo la fila. Ogni tanto per dirmi di andare a prendere i bambini all'asilo, per darmi i libri di comprare roba, vince il cavo. L'ho sentita solo una volta, io non l'ho sentita più. Sì, perché non è che li piace assai. Dici che da c'è la mia luce, sì. No, come fai? A me non piace. Io rispetto le sue e lui rispetta le mie. Ognuno. No, a me invece piace. Se non saresti qua. Avanti. Avanti, avanti, avanti per poco. Io gli ho fatto tutto, Antonio. In che senso tutto? Ho fatto il coso, ho fatto come si chiama, ho pagato i bollettini, ho pagato tutto, ho fatto la domanda. Tutto fatto? No, io dal 2 l'ho pagato. Sì, me lo so rifatto anch'io già. E intanto era come avevo detto io, come avevo letto anche su internet, che non... In pratica licenza non te ne mandano più. Non sai cosa dice che basta bastardi. Basta che tu hai controlli presenti, soltanto il bollettino pagato. Quello non penso. Il bollettino sempre che cosa lo paghiamo. La cassa, eh. No, per le eventuali controlli roba del genere, se non c'è scritto pure. Però è il trasto di cerno io, invece il trasto di cerno, cioè non è che parlo, è l'informazione, l'ho presa, cioè non la licenza, come era una volta che avevo proprio la licenza, ecco. Ma in pratica loro non ti mandano più niente, indietro non ti mandano anche niente, prima ti mandano la licenza, ecco, adesso non c'è più il controllo di licenza, dai controlli devi dare il bollettino pagato e basta, non c'è più, non c'è più fogli, non c'è più niente. Ecco, ma già c'è con l'autocertificazione. No, ho capito. C'è l'autocertificazione. E che autocertificazione? Quella che fai, praticamente l'autocertificazione, certifichi che c'è l'apparecchio MISA da per dire lo usi in casa, tutte le domande che ci sono scritte che fai, no? E quello lo devi spedire a loro, dicendo come ti chiami, il numero di apparati che hai, il numero di serie, e basta, quello va a loro, e però non ti rimandano niente indietro. Basta che ti fa la fotocopia, e c'è anche quello. Eh sì, ti fa la fotocopia, ma non è che ha nessun valore, non ha valore come licenza, come niente, già, è così. non ha valore dirigente, anche se si parla appunto pubblica, però ha il valore, il valore lo sai qual è, quello di adesso, basta che paghi per lui, e quello è il valore che ha adesso. E infatti è cambiata, perché ho guardato, è cambiata, c'è la nuova legge del 2003 di Piero Agita, a parte lui, che mi guida anche appunto i nomi, giusto giusto a farlo, allora, benedetta, attimino, allora, dunque, in osservanza del caso di disposizione prevista dal decreto legislativo del 1 agosto 2003, legge numero 259 del codice di comunicazione elettronica, e questo appunto dice che in pratica alla recepzione dell'autorità al rito di legge numero 159 di PR 1 agosto 2003, esibire in caso di controlli il cellulino onde comprovante la tassa. Le cosa fa? Oui, oui. Devo comprire. Che tra l'altro questa cosa da internet è scaricata o te l'ho detto da casa? No, è quello che mi hanno dato loro direttamente all'ufficio. Ma quelli di Sassari? Sappa! Non è comprato un caffè azzurro. Cazzo, già, ma se vieni se te la chiedono. Se è un documento con la legge scritta, ragazzo, ma cioè, se non mi dà niente che sono ufficio competente, che cose, che te le danno, come titolo informativo, allora ti danno una disposizione di legge, così te vai a massa, ti burro un gioco io. No, trappanini, quello lì non c'è problema. Ma non capisco un cavolo, perché vi chiede una cosa e non la sanno, che dice che le volte accade di che l'organo competente per queste cose mi accade. Sì, l'ufficio competente sarà a Cagliari, ma questa è una disposizione, questa è la disposizione delle leggi del 1 agosto 2003. E cioè, questo è il documento loro, che dico, questa è la legge che è attualmente in vigore adesso dal 1 agosto 2003. E poi con loro, in quella chiesa, questi sono quelli che vengono anche intestato, Ministero delle Comunicazioni, Tetrato, Territoriale della Sardegna, via Brenta, SN09122 Cagliari, contatto di 2003 per il tutto che è intestato, e questo è il Ministero delle Comunicazioni. Forse il Ministero delle Comunicazioni scrive Paolo Berfischi, non lo so. Io mi attengo a questo documento che mi hanno dato, poi non lo so, ti parla chiaro. Faccio quello che c'è scritto qua, e questo documento a me mi guarda dichiarazione per l'impianto del registro dispositivo della apparecchiatura terminale di comunicazione del 32 di quella dell'articolo 105 del coma lettera P, decreto legislativo 1 agosto 2003, numero 259, è tutto l'articolo proprio della legge. Riesci a vedere, provo a collegare un'altra cosa, mi ascolto anche io. Deve metterti un po' più vicino al microfono. Qua come segnale è tutto ok. Se passa il radio, perché giustamente non sei vicino al microfono, magari è un microfono normale, logicamente c'è così. Ma non importate ascoltarti da voi, da scendere il vostro o cosa, non importa. Lo so, potreste un pochettino attaccarti più al microfono, poi tutto il resto va bene, perché come segnale va bene. C'è un alfaglietto. Sì, ho un alfaglietto sotto. Va bene. E vedi, adesso mi ascolto anche io, perché ho messo quel portante, l'ho capito. Si fa il tipo per la sonda. Vabbè, va, buonanotte a tutti, là. Buonanotte, abbastanza bene. Mi stavi dicendo, Alex, che c'è il problema che si vedeva male il televisore, così. Infatti, non so che anche adesso si vede male, riesce a vedere che vuole controllare. 2-3, qua, allora quasi sì, lo sentite. Addirittura, perché l'aria a fuoco. Ma non c'è il digitale terrestre. E allora, riesce a entrare anche nel digitale, ma lo sai perché? Perché è attaccata la stessa antenna della televisione. Ah, praticamente gli hai messo il palo nella stessa posizione. E allora, infatti mi sa che non la devo chiudere, metterla a parte, capito? No, mettila a parte, se no tu muori, oi. Alex. Cioè, non c'era anche il trattorista, il travagliente? Non so se c'è, mi sembra che sia fatto le popole. Popole, ci sei? Non c'è. Ma ci sei ancora? Sì. Sentiamo più tardi, dai, popolo. Vabbè, sto chiudendo. Se c'era Gianni, non si sente. Però dai, lo saluto lo stesso. Ciao, Alex, ci sentiamo domani, dai. O al prossimo, dai. Ciao anche a te, Gianni, che mi stai ascoltando. Buonanotte a te, anche a Luca, che sta ascoltando. Buonanotte a tutti quanti, anche agli ascoltori. Gatto. Sì, oggi non hanno gana di fare già. Ciao, buonanotte. Gianni, svegliati. Ciao.